Perciò, lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo, eleviamoci alla perfezione, non gettando di nuovo un fondamento di penitenza da opere morte e di fede in Dio, di istruzione sui battesimi e sulla imposizione delle mani, sulla risurrezione dei morti e sul giudizio eterno. Questo faremo se Dio permetterà. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono divenuti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la parola bella di Dio e le energie del mondo futuro e caddero, è impossibile rinnovarli a pentimento, perché per loro conto di nuovo crocifiggono il Figlio di Dio e lo espongono all'ignominia. Infatti, la terra che beve la pioggia che frequente cade su di essa e genera erba utile per quelli da cui è lavorata, partecipa della benedizione da Dio. Al contrario, quella che produce spine e triboli è riprovata e vicina alla maledizione, e la sua fine è bruciare. Benché parliamo così, tuttavia, a vostro riguardo, carissimi, nutriamo fiducia in condizioni migliori per la salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare la vostra opera, la carità che voi avete mostrato verso il nome di Lui. Avete servito e servite i santi. Desideriamo pertanto che ciascuno di voi mostri la stessa premura per la pienezza della speranza sino alla fine. Perché non diventiate fiacchi, al contrario, siate imitatori di quelli che ereditano le promesse mediante la fede e la longanimità. Dio, infatti, nel fare una promessa ad Abramo, poiché non aveva nessuno più grande per cui giurare, giurò per se stesso, dicendo: «Certamente ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò in modo straordinario». E così Abramo, dopo aver atteso a lungo con pazienza, conseguì la promessa. Gli uomini infatti giurano per uno più grande, e il giuramento per essi è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Perciò Dio si fece garante con giuramento, volendo fornire agli eredi della promessa una prova più convincente della immutabilità della sua decisione, affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio mentisca, noi, i rifugiati in Lui, avessimo un forte incoraggiamento ad impadronirci della speranza messaci davanti, la quale abbiamo come ancora sicura e solida per l'anima e penetrante nella parte oltre il velo, dove è già entrato per noi precursore Gesù, divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.